Gino Castaldo, giornalista di Repubblica e autore insieme a Ernesto Assante di Beatles, un libro tributo al gruppo di Liverpool, edito La Terza. Esiste un mondo prima dei Beatles e un mondo dopo i Beatles. Che significa? Beh, significa la lettera intanto in senso musicale, perché probabilmente sono stati l'evento centrale della rivoluzione musicale dell'era moderna, insomma, senza alcun dubbio. Poi, visto che appunto siamo negli anni 60, quindi un'epoca in cui era difficile distinguere la musica da altre cose, quindi la rivoluzione è stata anche più generale, nel senso che aveva a che vedere con la moda, l'abbigliamento, il modo di comportarsi, le aspettative giovanili. Una cosa che secondo lei davvero è cambiata? Il modo stesso di intendere la musica, popolare almeno, ma non solo. E cioè come la intendiamo dopo? Intanto con loro è cominciata, non solo con loro ovviamente, ma principalmente con loro, l'idea che la canzone potesse essere un'opera d'arte, consapevolmente, quindi con tutto quello che comporta di ricerca, di sperimentazione, di innovazione e di libertà. Questo libro nasce da lezioni sulla discografia dei Beatles che avete tenuto a Roma all'Auditorium, un grande successo di pubblico. Sono ancora attuali i loro testi? Sì, anche se è difficile sempre nella musica distinguere il valore dei testi da quello più generale della musica, nel caso loro ancora di più, però diciamo la loro musica più che i loro testi è attualissima. Oggi se ci rimettiamo ad ascoltare, non so, Abbey Road o Sgt. Pepper, sono dischi ancora d'avanguardia. Questa è la cosa più clamorosa, anche se è un po' triste per quanto riguarda la contemporaneità, cioè siamo in un periodo di poca creatività. Sì, pochissima, per cui per assurdo sembrano. Ma come mai? Le cose che facevano loro nel 64 e quelle che si fanno oggi. È un discorso molto complesso, è lungo, è il mondo che va in questa direzione di opacità, diciamo, della creatività a tutti i livelli. E la musica che è un sintomo sempre molto veloce, è la prima di sentirlo. La storia dei Beatles è durata un decennio, un fenomeno musicale abbastanza rapido. È stata la loro ascesa così rapida a influenzare poi la loro fine altrettanto rapida? No, non credo, no, più che altro è, anzi, neanche un decennio, perché dall'esordio discografico allo scioglimento sono 7 anni e mezzo, sì, quindi ancora anche meno 10, il che la rende una storia ancora più sorprendente, quasi incredibile per il tasso di creatività che hanno avuto in così pochi anni. È che sono stati i primi a far tutto, è quello che li ha bruciati velocemente. È stata una storia che poi li ha spinti anche a cercare di essere individualmente qualcosa di diverso, e quindi questo poi ha portato a una rottura abbastanza precoce. Gino Castaldo, nella storia dei Beatles ci sono anche due donne, Yoko Ono e Linda. Quale fu il loro ruolo? Beh, un ruolo che è stato molto penalizzato negli anni, addirittura Yoko Ono ne parliamo, Linda la più discreta, ma Yoko è stata chiamata in tutti i modi, i peggiori, no? Intendendo come se fosse l'unica responsabile dello scioglimento del gruppo. Non è vero, ovviamente, c'era, o meglio era, insomma, più che altro era quello che faceva John con lei in quel momento che creava delle differenze con gli altri, però è anche vero che, per esempio, per quelli che dicono così male di Yoko, basti pensare che è l'ispiratrice di una canzone come Imagine, secondo me, per perdonarle tutto quello che si può dire. Certo. E Linda? Linda, in realtà, poi portando nelle liti manageriali che ci furono proprio alla fine della loro storia, c'entrò anche Linda, anche se, ripeto, aveva un ruolo molto più discreto, meno appariscente, quindi nessuno l'ha mai accusata di niente. Ma se proprio uno vuole cercare quel problema, riguarderebbe anche Linda. Cioè, che avrebbe portato Paul McCartney a distaccarsi o... Beh, Paul a un certo punto voleva che il manager dei Beatles fosse il padre di Linda, e gli altri tre non volevano, quindi, come dire, ci può essere stata un'azione anche da parte sua, in questo senso. L'8 dicembre dell'80 moriva John Lennon, fondatore del gruppo. L'assassino ha dichiarato ultimamente di essersi pentito. Lei cosa ne pensa? Forse è vero, ma insomma devo dire che in America funziona così: quando si chiede la libertà, poi dopo aver scontato parte della pena, cioè l'approvazione dei parenti delle vittime, e Yoko ha sempre detto di no. È un atteggiamento molto duro, ma devo dire che in parte lo capisco, perché un assassinio così insensato, così brutale, così difficilmente può essere perdonato. Il successo dei Beatles fu anche un grandissimo fenomeno globale, si parla infatti di Beatles mania. Che ruolo ha giocato la pressione dei media nella loro avventura e soprattutto nella fine? La pressione inizialmente fu il contrario, sono loro che hanno inventato i media moderni, che si sono, come dire, modellati proprio sul loro... parlo dei media musicali e di spettacolo, insomma, si sono modellati su qualcosa che non era mai successo prima, quindi poi sì, certo, poi dopo col passare del tempo la pressione era diventata molto molto invadente, sicuramente anche quello li ha spinti a delle reazioni anche personali molto molto diverse. Oggi sarebbe possibile un fenomeno Beatles? Non lo so, non credo, ma siccome appunto parlavamo di opacità del mondo in questo momento, mi piacerebbe molto, però diciamo, ecco, non la stessa cosa ovviamente, le cose non possono ripetersi, ma qualcosa di così potente servirebbe a tutti e soprattutto ai giovani che secondo me non meritano oggi un mondo così opaco. Cosa resta oggi dei Beatles? La sensibilità artistica, il genio e l'insegnamento appunto che c'è nella frase finale della loro storia. La loro storia musicale finisce con una frase inventata da Paul McCartney, che è: alla fine l'amore che dai è esattamente uguale a quello che ricevi. Mi sembra, come dire, una bella frase finale. Grazie Gino Castaldo. Grazie a voi. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it, nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Rachele Bonanni, Gloria Guerrera, Manuel Guerrini, Antonio Miragliotta, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.